Intanto una giornata della memoria molto particolare. Sono 80 anni dalle deportazioni degli ebrei italiani verso i campi di sterminio e questa è una prima data, è un primo punto da ricordare. Siamo in una giornata della memoria in cui l'edizione è particolarmente curata nel suo programma e attenta anche a quelle che sono le condizioni di attualità, ovviamente che non possiamo nasconderci dietro al fatto che il post 7 ottobre ha innescato indubbiamente la possibilità di riaprire porte rispetto a quello che è un sottofondo antisemita che strisciava nella nostra società. Si sono aperte porte e varchi che fino ad oggi erano state contenute, erano state arginate. Oggi chi doveva esprimersi su questo fronte ne ha avuto la possibilità. C'è stata proprio un'apertura verso questa dimensione che non è solo legata ovviamente a quello che è il contesto di attualità sul conflitto Israele e Palestina, ma in generale si è aperto un contesto globale, università americane, università europee, la nostra università, il contesto sociale in generale, le manifestazioni in piazza hanno riportato slogan e messaggi che non appartenevano più alla nostra identità sociale. Le abbiamo riaffrontate, le stiamo riaffrontando con a totale dissenso ovviamente, ma con grandissima preoccupazione.